Terzo anello, ad alta voce, L'isola del tesoro di Robert Louis Stevenson. Così andarono le cose, finché il giorno dopo il funerale, circa le 3 di un gelido tetro pomeriggio nebbioso, mentre mi trattenevo un momento sulla soglia immerso in neri pensieri su mio padre, scorsi un viandante avvicinarsi lento sulla via. Doveva essere totalmente cieco, perché picchiava davanti a sé con un bastone e portava una mascherina verde sugli occhi e sul naso. Era incurvato, fosse dall'età o dagli stenti, e indossava un'ampia vecchia rappezzata gabbana da marinaio, con un cappuccio che gli dava un aspetto deforme. Non avevo mai visto in vita mia più paurosa figura. Si fermò, a poca distanza dalla locanda, e alzando la voce con una bizzarra cantilena, interrogò il vuoto che aveva davanti. «Non c'è un'anima buona che voglia dire al povero cecchino che ha perso la preziosa vista degli occhi difendendo la sua amata patria. Dio benedica Re Giorgio, in che punto di questo paese si sia venuto a trovare?» «Siete all'Admiral Bembo, Baia del Montenero, brav'uomo», feci io. «Sento una voce», riprese, «una voce fresca. Non vorreste porgermi la mano e guidarmi dentro, mio generoso giovane amico?» Io stesi la mano e quell'orrido mellifluo figuro senza occhi l'afferrò di colpo come una morsa. Ne fui così spaventato che cercai di svincolarmi, ma il cieco mi tirò vicino a sé con una semplice stretta di mano. «E ora, ragazzo, venavi dentro dal capitano!» «Signore», dissi io, «parola d'onore che non oso!» «Zo!» sogghignò lui, «si tratta di questo? Menami dentro all'istante o ti fracasso il braccio!» E me lo torse mentre parlava, in modo da strapparmi un urlo. «Signore», continuai io, «lo dicevo per voi, il capitano non è più quello di prima. Tien sempre un coltellaccio sguainato. Un altro signore...» «Basta così e filare!» tagliò corto lui, e io non avevo mai sentito voce più ghiaccia, spietata e odiosa di quella di quel cieco. Il cieco s'attaccava a me, stringendomi nella sua morsa d'acciaio e appoggiandomi addosso più del suo peso che non potessi sopportare. «Conducimi dritto a lui, e quando sarò in vista grida forte: Bill, ecco un amico per voi! Se non lo fai, questo ti farò io!» E accompagnò il suo dire con un pizzicotto tale che credetti svenire. Messo fra l'uscio e il muro, ero così disfatto dal terrore del cieco che dimenticai il mio terrore del capitano, e nell'aprire la porta pronunciai le parole impostemi con voce tremebonda. Il povero capitano alzò gli occhi, e alla prima occhiata i fumi del rum svanirono, lasciandolo disintossicato a fissarci. L'espressione del suo viso non fu tanto di terrore quanto di mortale stanchezza. Fece l'atto di muoversi, ma non credo gli rimanesse abbastanza forza fisica. «E ora, Bill, resta dove ti trovi», disse il mendicante. «Se non posso vedere quando si muove un dito, lo sento. Gli affari sono affari. Porgi la mano sinistra. E tu, piccolo, prendi codesta mano per il polso e accostala alla mia destra». Gli ubbidimmo entrambi alla lettera, e io gli vidi passare qualcosa dal cavo della mano in cui teneva il bastone nel palmo di quella del capitano, che richiuse istantaneamente. «Anche questa è fatta», disse il cieco, e con tali parole abbandonò la presa e con incredibile precisione e sveltezza scivolò fuori della sala nella via, donde, mentre ero ancora immobile, mi giunse il picchiettio del suo bastone che man mano si allontanava. Passò un po' di tempo prima che io e il capitano potessimo riaverci, ma alla fine e quasi nel preciso istante io lasciai libero il polso che ancora stringevo e lui ritirò la sua mano e dette una sbirciata alla palma. «Alle 10!» gridò. «Abbiamo 6 ore, gliela facciamo ancora!» E balzò in piedi, ma nell'alzarsi barcollò. Si portò la mano alla gola, rimase in bilico un attimo e poi, con un rantolo strano, stramazzò, lungo disteso, a faccia avanti sul pavimento. Accorsi a lui sull'istante, chiamando mia madre, ma ogni sollecitudine era vana. Il capitano era rimasto fulminato secco da un colpo. Strano a capirsi, perché quell'uomo a me non era mai certamente piaciuto, per quanto da ultimo avessi preso a compatirlo. Ma non appena vidi che era morto, ruppi in un pianto dirotto. Era la seconda morte cui assistevo, e il dolore della prima mi era ancor fresco nel cuore. Non tardai oltre a raccontare a mia madre tutto quanto sapevo. Si imponeva una decisione immediata e alla fine ci venne in mente di uscire insieme e cercare aiuto nel villaggio vicino. Detto fatto, a capo scoperto come eravamo, ci lanciammo subito fuori, nell'oscurità crescente e nella nebbia gelata. Il villaggio si trovava a poche centinaia di yard, sebbene nascosto alla vista, sull'altro versante della baia contigua. E ciò che mi rincuorava assai era in direzione opposta a quella d'onde era comparso il cieco e dove era probabilmente tornato. Non rimanemmo che pochi minuti per via, e quantunque ogni tanto ci fermassimo per abbracciarci l'un l'altro e tendere l'orecchio, ma non si udiva alcun rumore insolito, nulla, tranne il leggero sciacquio della maretta e il gracchiare dei corvi nel bosco. Era ormai l'ora in cui si accendono le candele quando entrammo nel villaggio, e non potrò mai scordare quanto mi riconfortò la vista di quei bagliori dietro porte e finestre. Ma questo risultò poi era tutto l'aiuto che potessimo aspettarci in quei paraggi, perché, e si potrebbe pensare che quegli uomini avrebbero dovuto vergognarsi di se stessi, non ci fu uno che consentisse a ritornare con noi all'Admiral Benbow. Più insistevamo sui nostri guai e più quelli, uomini, donne e fanciulli, si stringevano alla protezione delle proprie case. Il nome del capitano Flint, se era nuovo per me, era più che noto ad alcuni di loro e si tirava dietro una sequela di spaventi. Alcuni che si erano trovati al lavoro nei campi sul lato opposto a quello dell'Admiral Benbow rammentavano in più di aver visto parecchi forestieri per la via e di essersela squagliata ritenendoli contrabbandieri. E almeno uno aveva visto un piccolo trabaccolo in quella che chiamavano la tana di Kit. Per questo bastava che un individuo qualsiasi fosse stato compagno del capitano per incuter loro un mortale terrore. Conclusione di tutto fu che riuscimmo a trovare alcuni disposti a correre a cavallo dal dottor Livesey, che si trovava in direzione opposta, ma nessuno che volesse aiutarci a difendere la locanda. Dicono che la viltà sia contagiosa, ma d'altra parte la disputa ispira coraggio. E così, quando ciascuno ebbe detto la sua, mia madre tenne loro un discorso. Non intendeva lei perdere del denaro che apparteneva a suo figlio orfano. Se nessuno di quanti siete osa, oseremo Jim e io. Torneremo indietro per la stessa via da cui siamo venuti e sentite i ringraziamenti a voi altri, omaccioni dal cuor di coniglio. L'apriremo noi quella cassa, dovesse costarci la vita. E vi sarò grata, signora Crosley, se ci presterete quella borsa per riporci il denaro che ci è dovuto. Manco a dirlo, io dichiarai che avrei seguito mia madre, e manco a dirlo, tutti riprovarono ad alta voce la nostra temerarietà. Ma nemmeno allora ci fu un cane disposto ad accompagnarci. Tutto il loro aiuto si ridusse a dare a me una pistola carica nel caso fossimo stati aggrediti e a promettere di tenere i cavalli sellati in caso fossimo inseguiti al ritorno. Mentre intanto un ragazzo sarebbe corso a cavallo dal dottore a chiedere l'intervento di rinforzi armati. Il cuore mi batteva a precipizio quando ci incamminammo nella notte gelata verso la pericolosa avventura. Cominciava a levarsi la luna piena che traspariva rossa attraverso i veli superiori della nebbia. E ciò accresceva la nostra fretta, perché era evidente che quando saremmo stati sulla via del ritorno avrebbe fatto chiaro e la nostra partenza sarebbe stata esposta a ogni sguardo. Ratti e silenziosi scivolammo lungo le siepi, senza vedere né udire nulla che accrescesse i nostri terrori, finché, con nostro grande sollievo, la porta dell'Admiral Benbow si richiuse dietro di noi. Io feci subito scorrere il paletto e rimanemmo ansanti per un momento nel buio, soli nella casa, col cadavere del capitano. Poi mia madre prese una candela nella dispensa e, tenendoci per mano, ci inoltrammo nella sala. Il cadavere giaceva come l'avevamo lasciato, sulla schiena, con gli occhi sbarrati e un braccio disteso. «Tira le tende, Jim!» bisbigliò mia madre. «Possono venire a spiarci dall'esterno! E adesso», aggiunse quando ebbi eseguito, «dobbiamo trovare la chiave su costui e non so chi di noi due se la sentirà di toccarlo!» E uscì in una specie di singhiozzo, pronunciando queste parole. Mi buttai immediatamente in ginocchio io. Sul pavimento, accanto alla sua mano, vi era un piccolo tondo di carta, annerito da un lato. Nessun dubbio che non fosse quello il marchio nero. Raccoltolo, ci trovai scritto dall'altro lato, in ottima e chiara scrittura, questo breve messaggio. «Avete fino alle 10 di stasera». «Aveva fino alle 10, mamma!» dissi io, e proprio mentre lo dicevo il nostro vecchio pendolo cominciò a batter le ore. Questo rumore inatteso ci rimescolò tutti e due, ma portava una buona nuova, perché non erano che le 6. «Su, Jim!» disse lei. «Questa chiave!» Frugai le tasche, una dopo l'altra. Pochi spiccioli, un ditale, un po' di refe e grossi aghi, una treccia di tabacco morsicata, il suo coltello a roncola, una bussola tascabile e un acciarino. Ecco tutto quanto contenevano. E io cominciai a disperare. «Forse ce l'ha al collo!» suggerì mia madre. Superando una forte ripugnanza, la cerai al colletto la camicia. E proprio lì, attaccata a un pezzo di spago incatramato, che tagliai col suo stesso coltello, trovammo la chiave. Imbaldanziti da questo successo, ci affrettammo senza indugio per le scale, alla stanzetta dove aveva per tanto tempo dormito e dove era rimasta la cassa dal giorno del suo arrivo. All'aspetto esteriore, essa non differiva dalle usuali casse da marinaio, con la sua iniziale B impressa a fuoco sul coperchio e quegli spigoli ammaccati e scheggiati dal lungo e grossolano uso. «Dammi la chiave!» disse mia madre, e quantunque la toppa fosse assai dura, in un batter d'occhio la fece scattare e alzò il coperchio. Un forte afrore di tabacco e catrame si sprigionò dall'interno, ma altro non ci fu dato vedere in cima tranne un abito completo di ottimo panno, accuratamente spazzolato e piegato. «Non è mai stato portato», osservò mia madre. Al di sotto di quello cominciava il guazzabuglio. Un quadrante, una gavetta di latta, varie trecce di tabacco, due coppie di bellissime pistole, un lingotto d'argento, un antico orologio spagnolo e parecchie cianfrusaglie di scarso valore, la più parte di fabbricazione straniera, un paio di bussole montate in ottone e 5 o 6 bizzarre conchiglie delle Indie occidentali. Mi sono spesso ritrovato a chiedermi come mai si fosse portato dietro quelle conchiglie per tutta quella sua vagabonda e perseguitata esistenza. Intanto non avevamo trovato roba di valore, eccetto l'argento e quelle bazzecole, nessuna delle quali rispondeva alle nostre necessità. Sotto c'era un vecchio impermeabile da marinaio, scolorito dalla salsedine marina in chissà quante taverne di porti di mare. Mia madre lo mise da parte con impazienza, ed eccoti davanti a noi, ultime cose racchiuse nella cassa, un pacchetto avvolto in tela cerata che sembrava contenesse delle carte e un sacchetto di stoffa che diede al tocco il tintinnare dell'oro. «Mostrerò a codeste canaglie che sono una donna onesta», disse mia madre. «Prenderò quel che mi spetta e non un centesimo di più. Porgimi la borsa della signora Crossley». E cominciò a contare l'importo del debito del capitano, passandolo dal sacchetto del marinaio alla borsa che io le porgevo. Quando fummo a metà di questa operazione, le posai all'improvviso la mano sul braccio, perché avevo inteso nel silenzio dell'aria gelata un rumore che mi aveva fatto venire il cuore in gola, il picchiettio del bastone del cieco sulla strada ghiacciata. Andava avvicinandosi sempre più, mentre noi, immobili, trattenevamo il respiro. Poi ci fu un colpo secco alla porta della locanda e allora potemmo sentir girar la maniglia e stridere il chiavistello mentre quel miserabile tentava di entrare, al che seguì un lungo silenzio, tanto dentro che fuori. Alla fine il picchiettio ricominciò e con nostra indescrivibile gioia e riconoscenza andò affievolendosi finché si spense a poco in lontananza. Mamma, dissi io, prendi ogni cosa e filiamo. Porto via quel che ho preso, disse mia madre balzando in piedi. Ed io prenderò questo per far conto pari, soggiunsi, impadronendomi del pacchetto di incerato. Non eravamo partiti un secondo troppo presto. La nebbia andava rapidamente dileguandosi. Già la luna splendeva nitida sulle alture da ambo i lati. Solo proprio in fondo al burrone, intorno alla porta della taverna, un leggero strato di bruma galleggiava intatto a coprire i primi passi della nostra fuga. Molto prima che a metà strada, un po' oltre l'avvallamento della collina, bisognava uscire allo scoperto, alla luce della luna. E tanto non bastava, perché già lo scalpiccio di numerosi passi precipitati ci giungeva agli orecchi, e quando ci voltammo a guardare nella loro direzione, una luce sballottata qua e là, che pure rapidamente avanzava, ci avvertì che uno dei nuovi venuti portava una lanterna. «Figlio caro», disse mia madre a un tratto, «prendi il denaro e fuggi. Io mi sento svenire». Questa era certamente la fine per tutti e due, pensai io. Quanto maledissi la vigliaccheria dei vicini, quanto rimproverai alla mia povera madre la sua onestà e la sua avarizia, quella sua baldanza passata e la sua debolezza attuale. Per fortuna eravamo proprio al ponticello e io la sostenni, vacillante com'era, fino alla riva dell'argine, dove, emettendo un sospiro, si lasciò cadere sulla mia spalla. Non so come trovassi la forza di farlo, e temo di averlo fatto brutalmente, ma riuscii a trascinarla giù dall'argine e un po' sotto l'arcata. Più oltre non potei portarla, perché il ponte era troppo basso per permettermi di far altro che strisciarci sotto. Così ci toccò rimaner lì, mia madre quasi completamente in vista, ed entrambi a portata di voce dalla locanda. La mia curiosità fu in certo qual modo più forte della mia paura, perché non mi riuscì di restare dove mi trovavo, ma strisciai di nuovo verso l'argine, donde, riparando il capo dietro un cespuglio di ginestre, potevo dominare la strada davanti alla nostra porta. Mi ero appena appostato che cominciarono a giungere i miei nemici, 7 od 8 almeno, correndo di gran carriera disordinatamente lungo la via, preceduti di qualche passo dall'uomo con la lanterna. 3 correvano insieme, tenendosi per mano, e potei ravvisare in quello di mezzo, anche attraverso la nebbia, il mendicante cieco. Un istante dopo la sua voce mi provò che avevo colto nel segno. «Giù la porta!» urlava. «Signor sì, signor sì!» Echeggiarono 2 o 3 e dettero un gran colpo contro l'Admiral Bembo, rischiarati dal portatore di lanterna. Ma poi li vidi sostare e sentii i loro discorsi scendere di tono, quasi sorpresi di aver trovato la porta aperta. La sosta però fu breve, perché il cieco ripeté nuovamente i suoi comandi. La sua voce risuonava più forte e più aspra, come se ardesse di impazienza e di rabbia. «Dentro, dentro, dentro!» urlava, maledicendo il loro indugio. 4 o 5 obbedirono all'istante, mentre 2 rimanevano nella via con quel formidabile mendico. Ci fu un momento d'arresto, poi un grido di sorpresa, poi una voce strillò dall'interno. «Bill è morto!» Ma il cieco riprese a sacramentare contro la loro fiacca. «Qualcuno lo frughi, Bighelloni scansa fatiche e gli altri su alla cassa!» strillava. Potei udire i loro passi rumoreggiare su per le nostre vecchie scale, tanto da far tremare la casa. Immediatamente dopo sorsero nuove voci di stupore. La finestra della camera del capitano fu spalancata con fracasso e tintinnar di vetri infranti, e un uomo si affacciò nel chiaro di luna, testa e spalle, rivolgendosi al mendico cieco nella strada. «Più!» gridò. «Ci han preceduti! Qualcuno ha buttato all'aria la cassa!» «Non c'è!» ruggì più. «Il denaro c'è!» Il cieco mandò un accidente al denaro. «La carta di Flint, voglio dire! Non riusciamo a trovarla da nessuna parte!» replicò l'uomo. «Ehi, voi altri al pianterreno! Non c'è addosso a Bill!» gridò di nuovo il cieco. A questo punto un altro della brigata, probabilmente quello che era rimasto giù per frugare il corpo del capitano, si fece sulla soglia della locanda. «Bill è già stato frugato», disse. «Non c'è nulla». «Ah, è la gente dell'albergo! È quel ragazzo! Gli avessi cavati gli occhi!» gridò il cieco più. «Eran qui un minuto fa! Avevano messo il paletto alla porta quando ho provato io! Sparpagliatevi, ragazzi! E scovatemeli!» «Non c'è dubbio! Hanno lasciato qui la candela!» disse quello dalla finestra. «Cercate, cercate! E scovatemeli! Buttate all'aria la casa!» Piero Baldini ha letto L'isola del tesoro di Robert Louis Stevenson. Riduzione Giovanni Piccioni. Regia Adelchi Battista. Coordinamento Fabiana Carobolante. Il terzo anello @rai.it